La timida e il timido seduti in un giardino, immobili tacevano, ma stavano vicini. Zitti, zitti, nessun di loro osava parlare. Più timido dei timidi, un topo si affacciò. Si baciano, mi vedono, potrò passare o no? Tra gli alberi se ne fuggì. La storia